sono stanco già di un minuto insieme a te. Figurati se un'ora ti basta senza me. Solo distratto posso parlare, posso ascoltare quello che vuoi. E non mi provocare perché non ti sento più. Testa un senso, dimmi tu che vuoi da me. Se vuoi soffrire ci puoi morire, non dipende certo da me. Non mi graffiare il cuore se coraggio non ne hai. E se vuoi far l'amore, puoi farlo senza di me. Tanto nessuno ti fa gioire né ti fa male come con me. Questa non è la vita che volevo insieme a te. Hai fatto i conti da sola, non li hai fatti insieme a me. Ogni ragione nel tuo da fare, un quadro tuo senza di me. E adesso prendi tutto, anche quello che non c'è. E non guardarmi strana con il ghigno del perché. Tanto nessuno ti fa gioire né ti fa male come con me. Questa non è la vita che volevo insieme a te. Hai fatto i conti da sola, non li hai fatti insieme a me. Ogni ragione nel tuo da fare, un quadro tuo senza di me. E adesso prendi tutto, anche quello che non c'è. E non guardarmi strana con il ghigno del perché. Io l'ho tentato, tu l'hai voluto, quello che ormai già non c'è, quello che ormai già non c'è più. Già non c'è più. Quello che ormai non c'è più. Quello che ormai non c'è più.